Disetto mio signore, alla guerra non ci voglio proprio andare. Piuttosto faccio l'obiettore, sì signore mi scusi se un fucile in mano non lo so tenere. Torno a casa, questo non è mio dovere. Disetto mio signore, alla guerra non ci voglio proprio andare. Piuttosto faccio l'obiettore, sì signore mi scusi se un fucile in mano non lo so tenere. Torno a casa, questo non è mio dovere. Chiano chiano mozzicamo una pallata, ni facimo alla guerra non ci siamo. Cala danza noi gridimo di sicuro, e che usano e male non è fatta a nessuno. Noi sparamo tra le casse, sì la pace qua cantamo. La leva sai è tutta una buiata, ti giro noi ti voto, noi ti mentono alla nuda. Ti fanno le domande così stanno all'usicuro, ci ti piacciono le fiori, quella ben dire puro. Diciamo le fiori tra i canoni noi mettimo, quelli di chioni li tenimo, facciamo una sposa nel lipo, ma sicuro sì, muerti noni no facimo. Tutti a casa forza noi che guerre no pulimo, facciamo stare con tutti da sicuro meglio stiamo. Quelli che stiamo buoni, vieni con noi che ti conviene, usa la capula se lo tieni, leva lo male e mettilo bene. La sale bombe pensa ai bagnoni, pensa alla mamma e loro cristiani, pensa alla zita che quando ti teni, torna a compare che c'è malignani. Mio signore, alla guerra non ci voglio proprio andare, piuttosto faccio l'obiettore, sì signore mi scusi se un fucile in mano non lo so tenere. Torno a casa, questo non è mio dovere. Diserto mio signore, alla guerra non ci voglio proprio andare, piuttosto faccio l'obiettore, sì signore mi scusi se un fucile in mano non lo so tenere. Torno a casa, questo non è mio dovere. Terror rebel qua sta canta, niente guerra tra la danza e lo mimo qua sta suona. Niente guerra ma vi emoziona, ma arrivo la cartolina cadigia. Terra terra tu sei stato scelto per andare a far la guerra. Ti rispondo o egregio presidente, io non sono nato per ammazzar la gente. A me mi sembra cavoli ti sangue ad ogni costo, ma se proprio ci tenete perché non date il vostro? Se poi verrete qui a cercarmi, avverte i suoi gendarmi che io non porto le armi. E se poi verrete qui a cercarmi, avverte i suoi gendarmi che non porto le armi. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi qua addosso. Dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ben cambia una croce. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi qua addosso. Dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ben cambia una croce. Disetto mio signore, alla guerra non ci voglio proprio andare, piuttosto faccio l'obiettore, sì signore mi scusi se un fucile in mano non lo so tenere. Torno a casa, questo non è mio dovere. Disetto mio signore, alla guerra non ci voglio proprio andare, piuttosto faccio l'obiettore, sì signore mi scusi se un fucile in mano non lo so tenere. Torno a casa, questo non è mio dovere. Alla guerra no signore, ma c'è cazzo ma ci fare. Voi voli portati vari, ma spicciata all'ospedale. Senti mo, terror rebel, gusto stile assai speciale. Cose la mano contro i diavoli, si capono solo male. Voi chiamate soldati, ma soldati di che cosa? Siete solo assassini, questa cosa è un po' penosa. E religiosa, vergognosa, chiamatela come voliti. Saccio solo che noi è giusto, purtu capo un capo teniti. Mi copo il MFS, mi copo il PD. Entrano un mondo più normale, senza guerra come again. Mi copo il PD, mi fermi up every day. Nessuno a morire, non pensato solo di te. Diserto mio signore, alla guerra non ci voglio proprio andare, piuttosto faccio l'obiettore, sì signore mi scusi se un fucile in mano non lo so tenere. Torno a casa, questo non è mio dovere.